Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È il giorno dello sciopero Wärtsilä, l'appello alla città di Trieste, proteste negli altri stabilimenti italiani del gruppo finlandese. L'azienda si sieda di nuovo al tavolo con i sindacati, nostra intervista al segretario nazionale FIM CISL Benaglia. Stabilizzazione in arrivo per il personale precario della sanità, entro l'anno le aziende assumeranno 216 persone. Madre violenta in manette a Trieste, sul corpo del figlio minorenne i segni delle botte, una barista li nota e informa i carabinieri. Gli incendi in Varese hanno creato un deserto da oltre 1000 ettari e aumentano i rischi di frane in caso di forti piogge. La crisi idrica non impensierisce l'Isonzo, niente rischi di impoverimento delle specie ittiche, in salvo già oltre 3000 esemplari. La musica in regione, dallo show sostenibile di Elisa al concerto in quota di James Blunt per il festival No Borders. 7:19 minuti di giovedì 4 agosto, buongiorno da Ludovico Fontana e Rita Amico. In apertura uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è sereno sulla regione, le temperature a Trieste 25 gradi e mezzo, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, a Gorizia 23 gradi, a Udine 21, a Pordenone 20 gradi e 5 decimi, a Tolmezzo 19 gradi, a Forni di Sopra 17, a Tarvisio 13 gradi e 5 decimi, a Sappada 12 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 14 gradi e 5 decimi, sullo Zoncolan 15 gradi, sulla costa Grado e Lignano 24 gradi e mezzo, temperatura del mare 28 gradi. Passiamo alle previsioni, per oggi tempo stabile con cielo in prevalenza sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio sui monti, farà decisamente caldo, specie in pianura nel pomeriggio, soffieranno venti di brezza sulla costa. 8 ore di sciopero oggi alla Wärtsilä di Trieste, ma anche negli altri stabilimenti italiani del gruppo. In piazza Borsa, dalle 9 alle 12, la manifestazione con la partecipazione della società civile. Ci sarà anche Luca Trevisan, segretario nazionale FIOM CGL. Ieri pomeriggio siamo stati davanti allo stabilimento per sentire l'umore di chi vede i 90 giorni dalla data di chiusura della produzione sempre più vicini. Che cosa si aspetta dalle trattative che ci sono sul campo? Speriamo che portino qualche frutto, soprattutto perché le famiglie in difficoltà non sono solo quelle di Wärtsilä, sono anche quelle dell'indotto. Non stiamo parlando di 450 persone soltanto, stiamo parlando circa del doppio. La viviamo giorno per giorno e altro non si sa di preciso come andrà a finire. Avete speranza? No, dipende da noi, purtroppo. E sono bruttissime, sa? Non sappiamo neanche noi cosa succederà, alla fine dei conti abbiamo sempre una minima speranza, però sono molto brutte per noi. C'è chi comincia già a guardarsi attorno per ovvio, un altro lavoro? Ovvio, quasi tutti, perché la fiducia è veramente poca. E altro lavoro ce n'è qui? È molto difficile a Trieste. Dal territorio la richiesta di manodopera c'è? Diciamo sì, non per tutti i dipendenti, 451 sono un po' troppi, compresi anche l'indotto, poi altre 700, non tutti troveranno un altro lavoro così facilmente, però alcune persone hanno già avuto dei contatti con altre aziende del Friuli o anche territoriali provinciali e hanno già fatto i colloqui e adesso si vedrà come andrà comunque, non stiamo scappando da qui. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'avvertenza Wärtsilä è una questione nazionale. L'azienda torni a sedersi al tavolo con i sindacati e l'appello di Roberto Benaglia, segretario generale nazionale della FIM, la Federazione Metalmeccanici della CISL. Lo abbiamo intervistato. La portata della scelta sbagliata della multinazionale finlandese di portare via da Trieste tutta la produzione e trasferirla in Finlandia è una questione nazionale che non possiamo lasciare solamente a Trieste. È tutta il sindacato dei metalmeccanici che si impegna per contrastare questa scelta che è stata fatta, come abbiamo detto, a tradimento, perché la multinazionale ha negato, si è sottratta, è stata opaca con il sindacato per mesi e di fronte ai chiarimenti chiesti da regione e governo ha negato fino a quando appunto invece ha dovuto ammettere un processo che secondo noi è profondamente sbagliato. Non è un'azienda in crisi, non è una produzione in difficoltà, non ci sono costi dell'energia o delle materie prime che giustificano questa scelta. Noi chiediamo con lo sciopero di oggi al gruppo Wärtsilä di sedersi di nuovo con il sindacato per rivedere la decisione. Ma a questo punto quali sono le soluzioni possibili? La soluzione è mantenere industria forte a Trieste. Perdere la produzione di Wärtsilä significa consegnare definitivamente Trieste a un declino industriale. Questo non è possibile. La soluzione è fare in modo che la multinazionale si confronti da zero con il sindacato. Noi siamo molto pragmatici, vogliamo discutere di competitività, discutiamo col governo e con la regione come sostenere l'attività industriale in maniera competitiva, vogliamo dare a Wärtsilä grandi opportunità, non vogliamo mettere bastoni tra le ruote, ma Wärtsilä deve sedersi con un atteggiamento che non è speculativo, un atteggiamento che deve cambiare profondamente. Noi chiediamo anche al governo che riconvochi il tavolo sulla delocalizzazione, perché questa nuova norma deve essere effettivamente usata. Le multinazionali non possono usare i soldi pubblici e delocalizzare in maniera gratuita. Ci sono casi simili a quello della Wärtsilä in questo momento in Italia? Ma diciamo in questo momento così clamorosi no. L'industria metalmeccanica sta tenendo per fortuna meglio di quello che si pensava in primavera con lo scoppio della guerra, con l'aumento dei costi dell'energia, e a maggior ragione il caso Wärtsilä stride. Ancora lavoro, definiti dalla Regione i percorsi di stabilizzazione del personale precario della sanità illustrati ieri ai sindacati a Palmanova. Le aziende sanitarie assumeranno entro la fine dell'anno 216 persone, di cui 42 dell'area della dirigenza e 174 del comparto, 40 infermieri, 107 operatori sociosanitari e 11 fisioterapisti. Il percorso è stato illustrato ai sindacati e alla dirigenza della sanità nel corso di un incontro nella sede della Protezione Civile a Palmanova. Il vicegovernatore e assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi ha spiegato che le nuove assunzioni riguarderanno il personale in servizio il 30 giugno e chi possiede il requisito di anzianità di almeno 18 e non più di 36 mesi di lavoro subordinato, con almeno 6 nel periodo emergenziale tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. Inoltre, entro il 30 novembre le aziende faranno un'ulteriore ricognizione. A Palmanova sono stati firmati anche due accordi che destinano circa 1.300.000 euro a beneficio della dirigenza medica. Si tratta di risorse che vanno ad incrementare il fondo per la retribuzione di risultato e dovranno essere utilizzate per la remunerazione della dirigenza ai pronto soccorso e ai punti di primo intervento. Siglato anche il verbale sui fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio pari a 290.000 euro. L'importo è a carico del bilancio regionale, in quanto la Regione provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio Sanitario Nazionale sul suo territorio. Trieste, Vaciuk, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca, violenze e vessazioni nei confronti del figlio, un ragazzino minorenne che è stato ora affidato ai servizi sociali. Sono le accuse a carico di una madre triestina ora in carcere. Le indagini sul caso sono partite dalla segnalazione di una cittadina che aveva sospettato i maltrattamenti. Della vicenda di violenza domestica che ha portato all'arresto a Trieste di una madre di 52 anni, i carabinieri diffondono pochissimi particolari e un video che è un pugno nello stomaco. Vi si vede un ragazzino percosso ripetutamente dalla donna e che pure non si allontana, non si nasconde, non ripara neppure istintivamente il volto dai colpi che sa di ricevere. Sono immagini registrate nell'appartamento con una telecamera piazzata dai carabinieri. Tutto era cominciato da una segnalazione. La commessa di un bar, dove il ragazzo si recava sovente, aveva notato i lividi, forse aveva notato la sua reticenza nel parlarne, nel dare qualche spiegazione, e aveva deciso di mettere a conoscenza dei suoi sospetti due carabinieri. Tutto è partito, insomma, come dice la nota dell'arma, da un cittadino che non si gira dall'altra parte. I militari hanno compiuto quindi i primi accertamenti e ricevuto i primi riscontri, e poi, su una veloce autorizzazione della procura, hanno piazzato le microcamere, le quali hanno confermato timori e sospetti. Indagando è emerso come la donna istruisse il figlio nel mentire all'eventualità di domande di estranei su quelle ecchimosi e su quei graffi, una reticenza che già in passato aveva evitato alla madre una condanna per episodi analoghi. A rendere il quadro ancora più triste, la situazione di degrado igienico in cui versava l'abitazione. Il ragazzino è stato affidato ai servizi sociali e inizierà un percorso di recupero psicologico. Nei confronti della madre è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere. Trieste, Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella cronaca anche un soccorso in montagna nel tardo pomeriggio di ieri per una escursionista che si è procurata una forte distorsione con probabile frattura mentre a quota 1800 metri stava salendo assieme ad altri compagni di escursione dai piani del Montasio verso la cima di Terra Rossa. Sul posto sono salite a piedi le squadre del soccorso alpino di Cave del Predile e della Guardia di Finanza di Sella Nevea. Bloccato l'arto, la donna è stata portata in barella a spalle fino ai piani del Montasio dove attendeva l'ambulanza. Torniamo a parlare di economia e lavoro e delle aziende che con l'avvicinarsi di settembre temono sempre di più i rincari delle bollette energetiche e sono tante quelle che installano impianti fotovoltaici per ridurre la dipendenza dal mercato dell'energia. La durata dei fermi produttivi ad agosto sarà in linea con gli anni passati, dicono da Confindustria e sindacati, anche se alcune imprese hanno in effetti aumentato i giorni di chiusura e di ferie per far fronte all'aumento dei costi dell'energia e ai problemi di approvvigionamento. Tuttavia l'economia del Friuli Venezia Giulia sta in generale bene e ha tirato anche nel 2022, ben oltre le attese, considerato il timore per gli effetti dell'invasione russa in Ucraina. In volume la produzione di quest'anno supera quella di 12 mesi fa, afferma il direttore di Confindustria Udine Michele Nencioni. Ciò che accadrà in autunno però è un'altra storia. Inflazione, prezzi di energia e gas alle stelle e innalzamento dei tassi sono i principali elementi di preoccupazione. Qualcuno ha già avviato le pratiche per farsi autorizzare la cassa integrazione già da settembre in via preventiva perché si inizia a vedere qualche calo di ordini, specie nella siderurgia. Alla luce di tutto questo, le imprese hanno accelerato i processi di riduzione della dipendenza dal mercato dell'energia. Michelangelo Grusti, presidente Confindustria Alto Adriatico. Noi stiamo incentivando le aziende proprio come sistema confindustriale perché cresca l'autoproduzione di energia, perché anche noi possiamo fare la nostra parte e io spero che anche la Regione indirizzi quote significative di investimenti proprio sulla transizione energetica del sistema industriale. Chi si occupa di installazione di impianti fotovoltaici, per esempio, è pieno di lavoro. È il caso della Grimel di Fontanafredda, costretta a declinare numerose richieste per la mancanza di personale. Il presidente della società, Giovanni Perin. Con la difficoltà di reperire manodopera, dobbiamo limitare anche la operatività perché, come siamo abituati a iniziare e finire i lavori in tempi rapidi. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora in Varresia, dove dopo l'incendio delle scorse settimane il territorio è rimasto devastato dal fuoco ed è alto il rischio di caduta massi sulla provinciale, un rischio che continuerà per anni, dicono i geologi. Dagli incendi di luglio è nato in Friuli Venezia Giulia un deserto da oltre 1000 ettari, un deserto pericoloso in alcune zone, come sul versante del Monte Staulizze che dà sul torrente Resia e sulla provinciale chiusa. Per 3 chilometri quadrati si contano quasi solo alberi morti, bruciati. Il terreno non ha più humus, solo le piante pioniere che attecchiscono sugli strati rocciosi potranno fare ritorno in un primo periodo. Gli animali che potevano se ne sono andati. Non c'è più erba o vegetazione ad ammortizzare la pioggia. Il terreno è ora sterile, impermeabile e più erodibile. Dal versante della montagna vengono giù pietre e detriti di continuo, velocemente, è una questione di minuti. Andrea Mocchiutti, geologo. Nei prossimi anni, fino a che la vegetazione non ha ripreso completamente la sua posizione, fino a che le zone che sono state completamente desertificate dall'incendio non vengono ricoperte dalla vegetazione, avremo la possibilità, anzi la frequenza, di formazione di colate di detrito, di caduta massi, di caduta di alberi che sono bruciati o che hanno subito forti stress proprio a causa dell'incendio. Tra Resia e Resiutta i problemi non sono spariti. Poca pioggia ed ecco le colate di massi, tanta pioggia ed ecco il rischio di chiusura del bypass sul greto del torrente. Uno studio al laser scanner permetterà di individuare le zone più a rischio dove progettare le opere di ripristino. Percorrere queste strade non sarà sicuro ancora per tanto tempo. Anche le persone che fruiscono delle viabilità, che andranno poi sui sentieri nelle zone colpite dagli incendi, dovranno prestare particolare cautela, soprattutto in occasione di forti piogge, in occasione di venti forti, perché è un terreno, una zona fragile e resterà fragile per anni. Resiutta, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Una notizia positiva arriva dall'Isonzo. Nonostante la crisi idrica, le specie di pesci presenti nel fiume non sono a rischio. Un'ampia operazione di salvaguardia ha consentito infatti di mettere in salvo oltre 3000 esemplari. Dal ponte di Sagrado si può percepire l'attuale flusso d'acqua dell'Isonzo ridotto a 18 metri cubi al secondo e questa volta la Slovenia non c'entra nulla perché la centrale idroelettrica di Salcano è ferma. La temuta moria di pesci però è stata scongiurata e in mancanza di dati ufficiali le stime approssimative dei pescatori parlano di poche centinaia di perdite. A evitare la strage la campagna preventiva dell'ente tutela patrimonio ittico. Massimo Zanetti è il responsabile della gestione delle risorse ittiche dell'ente. Nel solo fiume Isonzo, nel mese di luglio, siamo dovuti intervenire per 6 diverse giornate. Abbiamo impiegato oltre 20 persone del nostro ente. Siamo riusciti a recuperare circa 3.200 pesci di specie diversa, per lo più cavedani e barbi, ma anche carpe, anche lucci, siluri, trote, anche se in minima quantità. Non abbiamo riscontrato specie a rischio di estinzione. La popolazione ittica del fiume Isonzo ha una forte composizione di specie esotiche, quella più rappresentata e anche quella più preoccupante è sicuramente il siluro, un super predatore che raggiunge dimensioni importanti, e in questo fiume ne sono state trovate diverse centinaia. Ci sono altre popolazioni o specie di origine danubiana, probabilmente frutto di gestioni ittiche della confinante Slovenia. E i pochi esemplari rimasti nelle pozze isolate a valle intanto risentono del ristagno e dello stress termico che sbilanciano gli equilibri ecosistemici. I pesci recuperati in Isonzo sono stati lasciati in Isonzo, in zone che non riveliamo nel dettaglio, ma che sono dotate di sufficiente acqua per la sopravvivenza di questi pesci. Voglio ringraziare il consorzio di bonifica, i numerosi pescatori e tutti i volenterosi che hanno dato una mano all'ente tutela patrimonio ittico e i suoi volontari per riuscire a realizzare gli interventi di salvaguardia verificatisi qui nell'Isonzo. Sagrado, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E continuiamo a parlare di siccità con la storia di un'azienda agricola di Mortegliano che ha utilizzato una tecnologia all'avanguardia per tagliare il consumo di acqua del 70%. Quando serve, quanto serve e alla singola pianta che ne ha bisogno. Con questa idea alla base e con consistenti investimenti tecnologici realizzati negli ultimi anni, l'azienda agricola di Peter Larker a Chiasiellis di Mortegliano è riuscita a tagliare il consumo di acqua del 70%. Inoltre ha dimezzato l'apporto di concime alle piante che solo quest'anno ha consentito un risparmio del 40%, limitando al contempo gli attacchi funginei. Nella tenuta di 20 ettari nel Medio Friuli, la lotta alla siccità è condotta con le più recenti soluzioni tecnologiche, dotando il suo meleto di un complesso sistema 4.0 di irrigazione a goccia, altamente automatizzato e gestito da un tablet o da un telefonino. Peter Larker, imprenditore agricolo. L'irrigamento è, diciamo così, viene effettuato attraverso delle forchette che analizzano il terreno da zero, diciamo così, dalla base del terreno fino a 30 cm sotto, ogni 5 cm, e vengono analizzati temperatura, umidità del suolo e presenza delle sostanze nutritive. Questi dati qua, insieme alle rilevazioni che vengono fatte con i droni appunto per la conducibilità elettrica, sono dati che poi vengono elaborati da un computer e che ci danno esattamente la possibilità di dare le concimazioni e l'acqua appunto nel momento giusto, nel punto giusto. Un investimento di circa 20.000 euro a ettaro, ma che consente un notevole risparmio di una risorsa che con i cambiamenti climatici sta scarseggiando, l'acqua. Un investimento già rientrato nell'arco di 3 anni. Mortegliano, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine è chiuso il caso mense scolastiche. Il Consiglio di Stato conferma il no del TAR al ricorso contro il Comune da parte della società EPI, con cui l'azienda contestava il rifiuto dell'amministrazione comunale di Udine di fornire i nominativi dei componenti della commissione mensa e i dettagli dell'offerta tecnica della CAMST, la società che si era classificata seconda nella gara e subentrata a EPI dopo la rescissione del contratto a seguito dei disservizi per i quali la società era già stata sanzionata 3 volte. 2 milioni di euro dalla regione per la palestra di roccia da realizzare a Udine nell'area dell'ex caserma Osoppo, di cui è stato recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il valore complessivo dell'opera è di 3 milioni 200 mila euro. La palestra ospiterà tre specialità: quella corda, quella basata sulla velocità e quella dedicata alla difficoltà. Ci saranno aree didattiche per attività tecniche. La palestra potrà servire anche alle esercitazioni dei vigili del fuoco e di corsi abilitativi. Sarà alta 18 metri, 6 dei quali interrati. Ci sarà anche una parte esterna immersa nel verde per scalare all'aperto. L'edificio sarà in gran parte rivestito da pannelli fotovoltaici. Le 7.38 e 30 secondi in questo momento, passiamo agli spettacoli. Fa tappa in Piazza Grande a Palma Nova il concerto ecosostenibile di Elisa, Back to the Future Live Tour, spettacolo che prende il titolo dal suo ultimo album, che ha anche l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico ai temi dell'ambiente. Inizio previsto alle 21, ma prima in Piazza Grande sarà allestito un Green Village, uno spazio esterno all'area concerti e con ingresso libero. La stessa cantautrice di Monfalcone interverrà alle 18.10 a un incontro dedicato all'emergenza incendi con un rappresentante della Protezione Civile e delle Guardie Ambientali. Alle 20 si esibiranno invece i Sinners Congregation, band proveniente da Codroipo. Poi, appunto, dalle 21 il concerto di Elisa, ma sentiamo una sua presentazione del tour e del suo ultimo album. Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora. Sono contentissima di intraprendere questa strada e spero che sia soltanto l'inizio per un cambiamento anche più grande di me. Spero che anche tanti altri artisti seguiranno dei nuovi protocolli per portare la musica dal vivo in una maniera davvero più sostenibile. Tutto il concetto proprio dell'album si è sviluppato intorno all'idea di questi concerti sostenibili, cioè torniamo al futuro con l'intenzione di cambiare nel nostro piccolo tutte le nostre abitudini quotidiane per migliorare questa situazione, come tante gocce che insieme formano veramente un oceano. Il bassista americano John Patitucci, il chitarrista israeliano Yotam Silberstein e il batterista brasiliano Rogério Boccato sono i protagonisti del nuovo appuntamento di More Than Jazz stasera a Udine alle 21.30 in Piazza Libertà. Il trio propone i brani dell'ultimo album in cui sonorità e ritmi brasiliani si fondono in un equilibrio musicale tra interpretazione ed improvvisazione. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Nuovo appuntamento con la musica in alta quota di No Borders. Quello che sentite è la voce di James Blunt in una delle sue interpretazioni più famose, il brano You Are Beautiful, che nel 2005 arrivò ai vertici delle classifiche di tutto il mondo, dall'Australia agli Stati Uniti, dal Regno Unito all'Italia. Il cantautore britannico, ex militare che prestò servizio durante la guerra del Kosovo, è la star internazionale di questa 27esima edizione del festival No Borders, promosso dal consorzio turistico del Tarvisiano. Un ritorno per lui dopo la partecipazione alla 10ª edizione di No Borders. Nel 2005 si esibì in Piazza Unità a Tarvisio, questa volta invece sarà dalle 14 ai Laghi di Fusine. L'area concerti aprirà alle 11, mentre dopo il suo concerto si terrà un'altra esibizione alle 16.30 con il duo Balcania. L'area dei Laghi si raggiunge solamente a piedi o in bicicletta. La storica band prog italiana Delirium International Progressive Group apre stasera al Castello di San Giusto il Trieste Rock Summer Festival, rassegna interamente dedicata al progressive rock italiano ed internazionale, che vedrà alternarsi formazioni a San Giusto fino a domenica inizio, questa sera alle 21. Dalle 14 a Forte Colbadin di Chiusa Forte il progetto Anemos, progetto musicale di Nicola Tirelli per ricordare il poeta friulano Pierluigi Cappello. Brahms e Dvořák per il terzo concerto degli incontri di musica da camera di Cividale del Friuli alle 21 nella chiesa di Santa Maria dei Battuti. A Timau, alle 18, al Tempio Ossario, il drammaturgo e scrittore Carlo Tolazzi e lo studioso di storia sociale Matteo Ermacora sono i protagonisti del secondo appuntamento che il Festival Culturale Vicino Lontano Mont dedica a Il Silenzio e la Rivolta, volume pubblicato da Forum che raccoglie le quattro drammaturgie carniche di Tolazzi. Portare è il titolo dell'incontro dedicato alle portatrici carniche, quasi 1500 di fatto arruolate durante la Grande Guerra per rifornire le prime linee. L'attrice Giulia Cosolo darà voce ad alcune pagine del testo drammaturgico. E nell'ambito del Festival a Prodi, al Giardino Pubblico di Via Giulia a Trieste alle 20:30, il Tony Clifton Circus presenta il pluripremiato spettacolo comico Rubbish Rabbit, uno show anarchico, frenetico, gioco di parole frenetico gioco in cui parole e azioni si rincorrono, facendosi beffa del politically correct imperante. Inizia a Trieste il secondo ciclo di spettacoli del Teatro Ragazzi nel giardino del Museo Sartorio con ingresso gratuito. Alle 21 Adriatico, uno spettacolo per famiglie sul tema dell'ecologia. E a Prata di Pordenone alle 21, in Piazza per l'Indipendenza e la Libertà dei Popoli, per estate sotto un tetto di stelle, la compagnia Il Cerchio Tondo di Lecco presenta L'Omino dei Sogni, spettacolo di teatro di figura. Presentazioni letterarie, la scienziata italiana Ilaria Capua presenta a Lignano il suo ultimo libro Il coraggio di non avere paura, la pandemia vista da una stella, alle 18:30 al Palapineta. E l'attrice Veronica Pivetti presenta il suo romanzo giallo Tequila Bang Bang al Velarium della spiaggia della GIT di Grado alle 18. Siamo allo sport, il tennis, tante sorprese nella giornata di ieri dell'ATP Challenger 80 di Cordenonce, torneo internazionale con montepremi di 45.000 euro che si svolge fino a domenica sui campi dell'Eurosporting. Nel match serale il pugliese Andrea Pellegrino ha battuto la testa di serie numero 1 del torneo, il serbo Laszlo Gere, per 6-2, 5-7, 6-1. Fuori anche il numero 8 Marco Cecchinato, sconfitto dal portoghese Joao Dominguez, e l'argentino numero 3 del torneo Carabelli, battuto dal giovane italiano Bellucci. Passano il turno fra gli altri anche il lettone Gulbis e il bosniaco Djumur. Oggi si completeranno gli incontri del secondo turno a partire dalle 14. E ancora sport con le medaglie del canottaggio regionale reduce dai successi del mondiale giovanile. Ai mondiali di canottaggio Under 23 Under 19 il Friuli Venezia Giulia era presente con 18 atleti che hanno vinto 3 ori e 2 bronzi. Si sono riconfermate campionesse mondiali Under 23 nel due senza Samantha Premer e Maria Elena Zerboni. Ha conquistato il suo primo oro mondiale dopo l'europeo Under 19 Benedetta Pacor nel quattro senza, tutte atlete tesserate Saturnia, che festeggia anche il bronzo di Filippo Wiesenfeld al timone del 4 con. È rientrato invece a San Giorgio con il bronzo al collo nel 2 con l'Under 19 Marco Dri. Risultati studiati, preparati anche attesi dai CT nazionali Federico Parma e Spartaco Barbo, entrambi pure Saturnia. Non voglio peccare di presunzione, ma soprattutto con i due senza sapevamo di essere veloci, abbiamo avuto conferma in tutto il mese di raduno Piediluco perché le ragazze stabilivano quotidianamente delle ottime performance, ma anche il 4 senza di Benedetta si è sempre classificato nelle prime posizioni di tutti gli equipaggi azzurri durante gli allenamenti. Siamo partiti da Piediluco consapevoli che gli equipaggi erano veloci. Per me Samantha è un onore esserci riconfermate nella specialità del due senza pesi leggeri, però inizio settembre abbiamo in programma l'europeo Under 23, quale speriamo bene di riconfermarci campionesse in questa specialità. A metà settembre Premer e Zerboni affronteranno la sfida dei mondiali assoluti. Benedetta Pacor. È stata una grandissima soddisfazione che è frutto di anni di sacrifici e del lavoro che facciamo ogni giorno, anche grazie ai tecnici, in particolare a Spartaco che ormai mi segue da 4 anni, un risultato che io a dire il vero non mi aspettavo. La canottieri Saturnia con 2 ori e 2 bronzi mondiali giovanili e 2 CT nazionali dimostra di essere una delle fucine del canottaggio italiano. Il presidente Gianni Verrone. I risultati di così alto livello, molto prestigiosi, sono la cartina di tornasole e la soddisfazione dei soci del Saturnia che con il pagamento delle quote sociali sono il vero motore di tutta l'attività sportiva che riusciamo a fare. Trieste, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo al calcio. Oggi è la vigilia del debutto stagionale dell'Udinese, che domani affronterà alle 18 allo Stadio Friuli la Feralpi Salò per la Coppa Italia. Oggi pomeriggio rifinitura pre-match al Bruseschi. Per quanto riguarda la Serie C, con l'esclusione di Campobasso e Teramo e il ripescaggio di Fermana e Torres, oggi il consiglio direttivo della Lega Pro potrà definire i gironi del campionato della terza serie. Domani è in programma il sorteggio dei calendari. Calcio mercato, ieri la Triestina ha annunciato l'arrivo del centrocampista offensivo Lombardi in prestito dalla Lazio, ha concluso la scorsa stagione alla Regina in B, mentre il Pordenone ha annunciato l'ingaggio dell'attaccante Simone Palombi, cresciuto nel vivaio della Lazio, arriva in prestito dall'Alessandria. Basket, varati i calendari completi della due maschile dopo l'annuncio della prima giornata. Nella seconda giornata, il 9 ottobre, in programma Mantova Cividale e Apu Udine San Severo, i derby fra le due squadre friulane all'undicesima giornata, il 7 dicembre al Palagesteco, il 5 marzo al Carnera. Diramati ieri anche i calendari di A2 femminile, debutto casalingo per le due regionali. Nella prima giornata la Po Women Udine ospiterà Sangamilano, la neopromossa Futurosa Trieste sfiderà Broni. I derby il 26 novembre al Pala Benedetti di Udine e poi l'11 marzo al Pala Rubini a Trieste. 7.49 e 30 secondi, siamo alla rassegna stampa, cominciamo dal piccolo di Trieste. Musica all'aperto, fuori controllo, parte il ricorso, è il titolo principale che apre anche le pagine della cronaca di Trieste. Hotel contro locali notturni di Cavana, nel mirino le deroghe comunali, l'assessore De Blasio pronti a rivedere le scelte. La fotonotizia centrale ricorda invece che oggi è l'anniversario dell'attentato alla società che gestisce l'oleodotto transalpino. Così 50 anni fa il terrorismo colpì la SIOT, è il titolo. Alla vicenda sono dedicate le due pagine di Cultura. In prima pagina anche lo sciopero alla Varsira, la brutta vicenda di violenza della madre arrestata per le violenze contro il figlio, i temi della campagna elettorale e poi il richiamo all'ultimo saluto a Omar Monestier, il direttore del Piccolo e del Messaggero Veneto, scomparso nella notte fra domenica e lunedì. Oggi pomeriggio si terranno i funerali a Belluno, sua città natale. Quell'abbraccio al direttore che dura da lunedì è il titolo dell'articolo che compare in fondo in prima pagina sia sul Piccolo che sul Messaggero. Chiesti allo Stato aiuti per abbattere i rincari energetici, l'apertura del Messaggero Veneto di Udine, l'appello parte da Friuli, Venezia, Giulia e Lombardia. Molte aziende rischiano di non farcela, dice l'assessore alle attività produttive Bini. Nella fotonotizia, siccità e vendemmia, i prossimi giorni decisivi per la qualità del vino. Di spalla i fondi per la palestra di Roccia Udine, poi il braccio di ferro tra Comune Caffè e Contarena, con la confisca di 132 bottiglie a titolo di parziale riscossione del credito. I temi nella cronaca cittadina insieme al completamento della nuova rotonda tra le vie Molinuovo e Fusine. In prima pagina anche l'auto pirata che l'altra sera ha travolto in A23, un mezzo in sosta, la donna al volante aveva un tasso alcolico 5 volte oltre i limiti. In alto la scienziata Ilara Capua, oggi a Lignano James Blunt a chiudere No Borders. Sul Gazzettino, buchi in ospedale, assunti precari, l'apertura nella fotonotizia, Friuli aiuta il birrificio condiviso nato in Friuli. Anche qui richiami per la palestra di Roccia, per la politica, per la guidatrice in A23 e a fianco anche Caso Mense e mercato, calciomercato per l'Udinese. Il Piccolo, edizione di Gorizia e Monfalcone. Il titolo principale è questo: la bonifica del vallone, ruspe e droni in azione. Dopo il devastante incendio, tagliati alberi, rimossi pali dell'illuminazione e cartelli stradali. La strada è ancora chiusa, potrebbe riaprire domani. Per la cronaca cittadina di Gorizia, il carcere si allargherà all'ex scuola Pitteri, a breve la vendita dell'edificio al comune. Per la cronaca di Monfalcone, nuovo record per la scuola media Giacic, in 53 puntano all'indirizzo sportivo. Cronaca giudiziaria, anziana morì fuori dal San Polo, il PM chiede 4 condanne. La degente Olga Giacomello, 81 anni, fu colpita da un infarto nel cantiere dell'ospedale dove era ricoverata e da cui si era allontanata. E apre sulle stabilizzazioni in sanità anche l'edizione di Pordenone del Gazzettino. Nella fotonotizia il platano di Foro Boario a Sacile, che è entrato a far parte degli alberi monumentali d'Italia, poi Nuovo Mercato, la protesta pronta a bloccare il ring, dice il sindacato Goia. Sotto il caso i riproduttori di zinco sconfitti dal sì alle bare di plastica dal Consiglio di Stato, il via libera ai cofani funebri in polipropilene, battaglia vinta da un'azienda friulana. In basso poi una supervincita a Casarsa e la morte dell'avvocato Federico De Piero, una vita di battaglia all'INAIL. Sulla prima del Messaggero cambia la colonna di cronaca e anche qui la morte dell'avvocato De Piero, la vincita di Casarsa e poi la storia di uno studente del Galvani di Pordenone che ha conseguito la maturità mentre era ricoverato. In chiusura Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia, andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 gli Spredicis dal Muini, un classico della letteratura friulana del secondo novecento di Don Giuseppe Marchetti. Dalle 11.20 la musica con Vintage con Gianni Morandi, i programmi regionali tornano poi alle 14. In regia Riccardo Stoice e Tommaso Vino. In redazione ha collaborato Manuel Bussani, da Ludovico Fontana e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.